La voce del Maestro. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 20 versetti 15-16. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto, e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria!» Ed ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabboni», che vuol dire «maestro». Maria era crollata. Gli ultimi giorni dovevano essere stati terribili per lei, e ora il fatto che il corpo di Gesù potesse essere stato trafugato era la goccia che faceva traboccare il vaso. Posso solo immaginare la sua disperazione. Chissà in quei giorni quali erano stati i discorsi che avevano caratterizzato le conversazioni dei discepoli. Certamente nessuno si aspettava che Gesù potesse davvero risuscitare. Era una cosa che non avevano capito. Questo lo troviamo anche scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, versetto 9. Ma ad un certo punto qualcosa cambia tutto. Gesù la chiama per nome: «Maria!» Quale gioia avrà provato quella donna nel riconoscere la voce del Maestro quando la chiamò per nome? Prima non le era neanche passato per la testa che potesse davvero trattarsi di Gesù. Ma quando Gesù pronunciò il suo nome, in quel momento fu come se gli occhi di Maria si fossero aperti e lei potesse davvero vedere chi le stava davanti. Questa storia mi fa pensare all'esperienza di ogni credente. Un giorno il Maestro ha chiamato il nostro nome e noi abbiamo riconosciuto la sua voce. Fino a quel momento non ci eravamo accorti di lui, anche se probabilmente era a due passi da noi e avevamo continuato a cercare un senso nella nostra vita. Lui era lì vicino e noi lo avevamo considerato uno come tutti gli altri, un ortolano qualunque. Ma quando abbiamo sentito chiamare il nostro nome, abbiamo risposto: «Maestro». Maria ha incontrato il Maestro proprio perché era andata a cercarlo. E tu? Sei alla ricerca del Maestro? Sei interessato alla verità? Oppure vai avanti giorno dopo giorno pensando che niente abbia un senso e la vita sia solo una parentesi tra la nascita e la morte? Cercalo. Egli è risorto, non è più nella tomba. Cercalo. Tendi l'orecchio e sii pronto a riconoscere la voce del Maestro quando ti chiamerà per nome.